Noi a Termini Imerese produrremo 4 modelli. Produrremo la nuova DR1, la DR3, che è un segmento B, una simil punto per intenderci, la DR4, che è un simil bravo, e il nuovo SUV DR5. Che è un simil cosa, visto che mi sembra che vi siete seguendo. Prima ho fatto un paragone con le vetture Fiat, la Fiat non ha un SUV, per intenderci un Nissan Qashqai. Ma mi sembra che ce l'abbia un SUV la Fiat adesso, che si chiama Free qualcosa. Il Fremont, è un SUV, ma non è un SUV compatto perché è di dimensioni molto più grandi rispetto al nostro. Comunque, questo andrà a incidere e quindi a ridurre la produzione ai dipendenti in Molise, macchie no, di Isernia? Assolutamente no. E quante persone... Prego. Noi contiamo di aumentare il numero di dipendenti anche nel Molise. Ah, di aumentare. E quante persone assumerete a Termini Imerese? Nell'arco di 4 anni, 1300 persone. Però... Tutti quelli praticamente... tutti i dipendenti Fiat quasi, tranne 50, mi sembra. Sì, praticamente sì. Quindi voi prenderete tutta la parte... siete l'investimento più grosso nella zona, nell'ex stabilimento Fiat, se ho ben capito. No, noi prendiamo tutto l'ex stabilimento Fiat, perché le altre aziende che partecipano al contratto svolgeranno la propria attività nell'area industriale di Termini Imerese, ma al di fuori dell'impianto Fiat. E quanto riceverete dal Ministero per lo Sviluppo Economico e dalla Regione Sicilia come contributo? È abbastanza difficile quantificare questi importi perché ci vengono dati a vario titolo. Però certamente c'è stato un grosso impegno da parte della regione Sicilia, da parte anche del Ministero. No, perché a noi risultava che l'accordo di programma sottoscritto tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la regione Sicilia prevedesse lo stanziamento di circa 178 milioni a favore vostro, tra contributi, finanziamenti agevolati, aiuti all'occupazione. Ripeto, è abbastanza difficile da quantificare, potrebbe essere, è una cifra che ci va vicino. Dando la giusta interpretazione, potrebbe anche essere questa la cifra. E voi quanto investirete lì? Più o meno altrettanto, circa 150 milioni.